facciamo leggermente la campagna adesso. Fatto ancora la campagna e siamo a vite da Rossi. No, ho fatto cosa è rimasto, due spaghetti e niente, abbiamo mangiato un piatto di pasta asciutta e col sugo che ho fatto con la roba di male, là. Vabbè, come è andato poi la cottura di quel polvo? Allora, il polvo che ha fatto casino, mia moglie ci ha buttato dentro le fave congelate ancora. Le fave congelate? Col polvo che ha cotto? E allora? Si vega, si vega. Sono andato a mezza cottura. Prima di essere cotto del tutto ce le puoi buttare le fave, ma è meglio che siano, che non siano congelate. E infatti ti sto dicendo, ce le buttate e le ho congelate. Quindi, alla fine cosa è successo? Che ti è rampato tutto? Ti è uscita una grattinata, fa adesso la prossima volta lo butto io. Uia, uia, tanto te l'ha giudito molti valloci. Alla fine del mondo io l'ho fatto, va molto bene. Ehi, lo so, ma siccome io gli ho detto di fare così, invece lei, siccome fa la testa su ogni volta, invece di ascoltare, e dopo escono i risultati su quelli. Fave congelate ce le puoi buttare quando il polpo è, non è ancora cotto. Siccome le fave cucinano prima, si cucinano tutte e due assieme. Anche un mezzo bicchino di vino bianco ci potevi mettere dentro, aglio, prezzemolo, peperoncino, tutto il condimento che ci vuole, ma sempre il polpo prima e le fave quasi alla fine, ma una quindicina di minuti prima che il polpo sia cotto del tutto, va. Ma se le fave non sono congelate, sono già scongelate, allora sì. Beh, certo, cazzo di lampo, la fava congelata, non è così. E infatti io gli avevo detto di prepararle di come si chiama, perché il polpo l'ho tolto io la mattina. E pensavo la mattina quando gli ho telefonato aveva tolto le fave, invece le fave non le ha tolte dopo. Me le date quando era quasi cotto. Infatti io ce li butto, però se lo mangio ti dici. Ma per me erano fave proprio quelle congelate da fare bisogni. No, fave fresche che avevo messo in freezer, capito? Quelle le saltavi in padella, in mezza cottura, poi ce le buttavi in mezzo al polpo e usciva una canonata. Ma infatti dovevano essere scongelate, una volta che erano scongelate andavano meglio. Beh, già lo dico che andavano meglio, ma era grande. Ma io non dico, cioè, in parte questo, questo coso, questo rosmetro, perché adesso mi sta dando uno anche qua. Magari l'umidità dell'antenna, come ha piovuto, adesso si sta assestando. Ce l'avevamo vulcanizzata, non ti preoccupare, non succede niente. Oh, ma non hai capito, siccome stavo andando in macchina che mi avevano fatti scendere, e qua adesso non durando mi sta dando 1 e 1, si sposta appena appena di 1 e 1. E non sei contento? Io c'ho. E anch'io 1 e 1. 1 e 1 è qualcosa. E vabbè, quello sì, via, meglio così, cosa vuoi dire? Noi ci vediamo, guarda, se quello là parte, vabbè, intanto se parte quanto ci rimane? No, ma lui va e torna in settimana, capito? Adesso dopo queste fette vediamo. Se va, la faccio prendere a Mantova, così la piazziamo. Non c'è problema, lunedì doveva andare, questo mese, speriamo che vada. Se va, va dopo queste feste, quindi tu già lo sento e poi ti faccio sapere. Ok, va bene, no, così almeno facciamo una e l'altra, piazziamo quella là e ci mettiamo l'altra sotto che c'è tu. Yes, yes. Così almeno. si pensa a tutto quanto. Tanto ce la facciamo io e tu, e mo se te riuscire non mi dare i beni. Guarda, io niente non mi piatto da solo, non mi piatto a quell'altezza lì, mi piatto a 40 metri. Perché qua mi piatto io da solo. Quindi non ho bisogno di nessuno. Ma la confusione c'è, è il lavoro mio. Io me l'assemblo a terra, una volta che è tutta assemblata, il radiale mi ripiazzo, una volta che l'antenna è innestata nel tubo, la faccio girare piano piano, capito? E poi le attacco il piede e la tiro su. Non ho bisogno di nessuno io. Così ho fatto qua, così ho fatto via Pasqua, e così ho fatto sempre, io non ho mai avuto bisogno di nessuna precedente. Mi piazzo io la giura, mi piazzo qua. Non ho bisogno di maestri a fare niente, ho bisogno di maestri proprio 0 sotto 0. Questo qui c'entra, ma va niente, poi vediamo, anzi io sento a Mario quando parte, poi glielo dico e vediamo. E ok, va bene. No, dato che lui ha detto che non ci sono problemi per il discorso dei tiranti, si fa, anche perché sono sicuro che col fruscio lei non sta facendo un po' il tubo, eh? Il tubo, ma l'antenna che flette è un tubo, il tubo non lo può fare perché non fa flettere il tubo. Eh vabbè, boh, no, è l'antenna, perché ho visto che gioca un po' con l'antenna, Gioca, Mauro, non può giocare, si è attaccato al tubo, flette sicuramente, è un'antenna fine. È un'antenna diversa dalla Mantova, quindi sicuramente un po' di flessione superiore alla Mantova la fa, ma non è quello. Quando c'è vento le antenne fischiano tutte. Io non la sento perché la mia è in alto, lui ce l'ha sopra il tetto, chiaramente magari la sente. Infatti sto pensando che è quello che secondo me tira il vento un po' la sente lui. Sicuramente, può darsi che con la Mantova sei più robusta, può darsi la senti di meno, mi. Con quel vento che c'era ieri, la mia, non la Mantova ma qui si muove con un tubo di 2 pollici. Ma sto dicendo la X510, l'altra, che c'è dall'altra parte, che sono quelle in fibra, si piegava a 45 gradi, è chiaro che fischia. E ho capito. E vabbè, ma io sto pensando che quella lì, siccome io l'altra volta l'ho guardata quando c'era vento, visto che fletteva un po', guardasse che lui sente quel rumore lì, che come flette, che passa il vento, fischia e sente un po' di rumori così. Sicuramente sì, ma lo vediamo, sentiamo, siamo in piedi, cosa dice. Io, per me il problema è già risolto, lì bastava mettere il tubo molto più meglio di quello, si tirava molto su, in modo che rimaneva attaccata dal tetto, perché anche quello è il fischio, e ci mettevano dei tiranti. Lui non ha voluto mettere i tiranti, dice che esteticamente sono brutti, ma... No, io l'avevo detto di tirarti in pratica, che in nylon quando si prende, l'altro giorno ho detto, se c'è bisogno di metterli, che metto, si metto. E quindi per quello te l'ho detto il discorso davanti qua. E cosa ho detto di plastica che non si vedono? Cazzo, io non conosco tiranti che non si vedono. La lenza non si può vedere, ma la lenza non serve a niente a fare i tiranti. Cazzo, una volta con la lenza. Ci vogliono i tiranti di nylon, bianchi. Che cazzo vuol dire che non si devono vedere? Ci vuole la maschera se non le vuoi vedere. Io non ho mai visto di antenne senza tiranti o tiranti che non si vedono. Cazzo, c'è l'antenna del televisore legata a fin di ferro, tiranti fin di ferro e rompere il palle agli altri. E chi so che chissà che l'aveva fatto. No, tu cosa mi hai detto l'altro giorno? C'era la nylon trasparente che non si vedeva. Cioè, nylon trasparente non si vede, cazzo, ma questa roba che hai soldi. Allora c'è quindi un sacco di nato, pure in quattro di nato, quando con 10 euro compro 30-40 metri di nylon, quello fine marino, dove ci serviamo noi, e si mette quello lì, che poi c'è quello che tu puoi mettere lì, manco tirante ci vuole. Io non ne ho tirante ad esempio, non ne ho mai avuto, eppure mentre mi ha pigliato l'antenna. C'è appunto quando è arrivato a Pasqua, qua non ne parliamo, ma se il tubo è buono e sta fatto bene a muro, non ce ne vogliono tiranti. Io ho un tubo a 2 pollici di piantone, a 1,5 pollici, che entra direttamente a 90 qua. È giusto, perfetto proprio a entrare. Perciò non vedo la ragione per cui uno debba mettere tiranti. Vabbè, io ho l'antenna bassa. Essendo in alto ho cercato come faccio di mettere un tubo a 6 metri. Non serve a niente. Beh, tu già sei alto, non hai bisogno di alzare il tubo. Vabbè, ma quello che ho preso io va bene per la mantova oppure bisogna cambiare il tubo? O quello per la mantova. Oh, mi ha vetturato, non lo conosco, mi ha vegliato il tubo e gioca dentro la mantova. Sono pignoli a mettere i tiranti, anelli, occhielli e capi di trucco e allora poi compare già i tubi da 2 litri. Ci vuole il tubo da 1,5 pollici. 1,5 pollici è l'ingresso del piantone per la mantova. Quindi una volta che c'è un tubo da 1,5 pollici, si mette all'interno e stai pur certo che non gioca nulla, rimane perfetta, stabile, anche perché quella che ho io perlomeno c'ha gli agganci in acciaio inossidabile. Quindi una volta tu stringi quella, metti un pochino di vasellina ed è a posto, rimane ordinata e pulita. Armiamoci e partitesse. Ok, va bene, intanto se mi viene a cambiare il tubo si cambia, capito? Si mette più grosso, se vuole più grosso. Ne abbiamo tubi, mi ha dato già uno a Luca, dobbiamo fare anche quel lavoro di Luca, telescopico, lo stesso, 1,5 pollici, e va bene lo stesso, se è 1 pollice va bene lo stesso, ma no, che è un tubo da 3/4, gioca troppo. Comunque già abbiamo tubi, io anche mansarda a tubi, non c'è problema, già ci arrangiamo per il tubo, l'importante è avere l'antenna a sassa e poi non me ne frega niente del tubo. Ah, cioè tu stai dicendo che questo tubo qua è più grande per quella là, è troppo grande? No, è troppo stretto, perché questo c'è i cavallotti, questa antenna c'è i cavallotti, quindi la puoi mettere un tubo, basta che resista, il tuo è da 1,5 pollice, va bene, perché c'è i cavallotti, la mantova invece no, la mantova sale in mezzo a 1,25 pollici, quindi va bene lo stesso, 1,5 pollici, va bene, non problema. Io ho capito, vuole il tubo più grande, dai. Vabbè, il tubo più grosso, in modo che innesti dentro direttamente e sia cavallo, capito, non hai bisogno di niente, poi c'ha le sue fasce, i suoi cavallotti interni dove con il bullone passante in acciaio, come la mia, il lavoro è fatto bene. Ok, io ho capito, quindi va, passa il tubo bucato e dopo passa il dado e stringe, dai. Esatto, altrimenti bisognerebbe boccolarlo o farle in officina giù al produttore, se fare una boccola sellata per far più grosso il tubo. Ma via lavoro, vabbè, lo stesso, per recuperare quel tubo sto dicendo, per non spendere altri soldi. È come le boccole che si mettono dentro le antenne, si fanno tutte le misure al tornio piccolina e si innesta dentro, non è un problema quello. Ce lo vediamo dopo, quello di nuovo l'ha già soltanto un tubo. Ehi, Vettonio, Vettresa, tutto io a produttore se qui, che provaccio. Non ci spaventiamo, l'importante è che abbiamo l'antenna, proprio il tubo già ci pensiamo dopo. Ci sono nato con la furgonetta un tubo da 2 metri di quelli che ci sono giù, e abbiamo 2 tubi di quelli quarta, mezzo, tre quarti, un pollice e mezzo, due. Tanto lui viene di condotta. Ti posso dire, non mi farà più un'antenna. Ah beh, dice poco, ma sicuro. Boh, io mi sto guardando questa cosa, guarda, boh, non ce l'è. Regolata. Dice, vedi. Ma non è, il discorso non è 9:10, no, è il discorso di stazionare, si è farata, prima era 1:04, 1:03 e adesso è appena appena di più di 1:01, quindi più che un semano che si sta accettando questa cosa, questa antenna, cosa vuoi dire, comunque già va bene, meglio così. Perché sto andando modulato 5, 6 e intorno ai 7 watt d'acqua. Ah vabbè, e può darsi anche che il vento abbia girato leggermente la spiralina, non è stretta bene, era forte il vento ieri, ma forte era. E quindi si è regolata da sola, adesso ci sarebbe da andare a stringerla bene forte in modo che non si sposti più. Può essere successo anche così. Vabbè, pazienza. No, va bene, la spirale, guarda, era stata bloccata qualcosa. Ma era stretta e dopo il dadino era stato bloccato con l'altro, con l'altra giornata e quindi l'ho preso e si è spostato. No, allora ce l'avevo messo anche controllato. E allora l'assettamento dell'antenna, cioè l'antenna con l'uscito, con l'umidità, a volte fa il contrario, sono antenne che aumenta la stazionale, altre abbassa, quasi quella essendo un'antenna cortocircuitata, stia giocando in quella maniera. Sì, sì, per me sta andando bene, perfetta, guarda. No, hai visto, è entrato, va bene, non c'eri, no, forse c'eri o non c'eri. No, mi sembra che non c'eri, che era in un'altra frequenza. È entrato uno che era un po' senza modulare. Uno che era un po' senza modulare. Ma di qua della mia zona, Giovanni. E forse Giovanni, buh. Era un uomo anziano. Che stavano parlando e mi ha detto loro, dicevano un po' senza accendere, lui dice sono acceso, è entrato dopo, vabbè, adesso non me ne ricordo come si chiama. Quello di Mattore, quello come abita qua nella zona alta vicino a me lo stesso, e io perché ho detto che lo so che sono qua, è entrato anche Marco Scorpio oggi a salutare. E pian pianino adesso sanno che siamo qua sul 10, già entrano le persone che mi conoscono, già entrano, c'è problema. Non c'è problema, è abbastanza popolato il canale, non ci possiamo lamentare. Non è ancora entrato Gianni, Capri 2, deve essere ancora a cena, forse c'è gente. Ok, Sandro lo stesso, c'era gente. Antonio lo stesso, e vabbè, questi giorni di festa è così, ma già non ci possiamo lamentare, dai. Beh, quello no, già va bene. No, c'è venuto uno che c'è la campagna in zona di Torino, mi stava dicendo che modulava una ventina di anni fa, una cosa del genere, e si chiamava Baracchino o Gamba di Legno. Lui si chiama Gamba Legno, io lo chiamavo Gambanella. Ed era da Torino, stavo parlando, ho detto no, io le ho dati, c'è due baracchine, ho detto no, io ho detto ci siamo trovati con Claudio, ma ho dato l'autorizzazione per andare in casa a mettermi l'antenna e quindi ho riattaccato tutto. Anche gli ho detto perché piano piano sta entrando gente, anche vecchia, e quindi ci facciamo una chiacchierata, tra di noi tranquillamente, senza problemi. Vabbè, tranquilli, sì, maestro piccolo strafottente che maleducato, che ha sempre ragione lui e mi lascia perdere. Troppo gabbo. Ma stavo dicendo una cosa. Ma tu non l'hai visto, vabbè. Tu sei venuto, c'era una parte solo fatta. Adesso c'è anche l'altra parte. E stasera io ci sono in una base, ci sono nell'altra mia L. Oh Mauro. Mi hai detto che ti dovevo portare dall'altra parte per fare il coso a L. Fatto, l'ha finito Giulio il lavoro. Finito, tutto piazzato, tutto a posto. E allora salgo in settimana a guardarmelo. Ma tu quando devi andare là? Là. A che la monti? Ehi, io in settimana devo andare lo stesso. Devo andare perché devo fare la taratura a questa radio, mi serve per gli 80 metri. Ed è leggermente spostata e devo farlo. Ma ci vediamo, perché ho sentito anche Massimiliano oggi in 2 metri. Mi ha detto anche lui che è esinato col lavoro, però ci sentiamo prima con lui, se me la fa Massimiliano, preferisco farla fare da lui perché qua poi l'ha già vista, l'ha già fatta. Se però Massimiliano dice che non c'è tempo, che è incasinato col lavoro, devo per forza andare a Chiara Monti a farmela fare perché sono. Mi manca una radio di 80 metri, io ho una radio per ogni banda, come HF, quindi non mi va di stare commutando, facendo, staccando antenne, passando all'altra. No. E quindi devo fare questa cosa anch'io. E avanti il break. Dall'ottone come qua, grandi campi due. Ho avuto che avete sentito la mia mancanza, ma anche quella degli altri. Io trovo, ho fatto un prodotto che è contabile, una buona della fisarmonica. Ho pulito le terne reti, le ho uscito oggi dalla fabbrica. Non mi dire che era sporco, no? Carlo è abbastanza pulito, eh? Però Carlo gli ha fatto come sistema di plastica. sopra, ci si lì sopra, insomma, la prendono, poi si lava, si butta, se ricambia. Io ce li ho tutti così i microfoni, tutti così, perché vanno molto meglio. Il problema è quando ci parli che ci lavori sopra e niente, poi io fumo, quindi è meglio proteggere tutto. Ma sono anche belli, Guarda, se vuoi andare a comprarli vai, se fa perdere molto tempo all'emiciclo Garibaldi, c'è quello che vende, tu lo sai, quello che vende i cosi musicali, strumenti musicali, e le chiedi, ti fai vedere la misura, prendi quella media, cuffia di soffio, basta, costa una tronzata. C'era l'ombrello, ma non l'ho trovato. Vabbè, ascolta, io vi saluto, vi corico che domani mattina la sveglia alle 4 mi suona per andare a lavorare, casomai ci sentiamo domani. Va bene Mauro, d'accordo, ci si aggiorna domani allora, dai, buonanotte. Buonanotte, ci si aggiorna domani. Avanti Gianni. Ok, ciao Mauro, allora salutoni, buon tutto per domani, allora non trappacco, però c'ho questo impegno di Maroma che via lo porto mercoledì, mi volevo avere tutta la giornata tranquilla e tanto se la marmita è arrivata, ma io allora la porto molto al mercoledì mattina, ecco, vedo perché devo andare lì, grazie, mi sono una persona a farla da sera. Come zampe di paziente che ne vuole la radio 4-5 volte. Ma ti stavo dicendo, questa roba del microfono che ho ordinato, è passato venerdì, io le donne a moglie di Svena indietro, ma se la possono aprire state ancora, con la lì. Sì, sì, non so quanti giorni rimane il pacco prima di essere mandato via. E dopo la posso ringraziare. Chi è che te l'ha portato? E allora vai alle sedie in giacenza, avvisano a lui che il pacco non è stato ritirato, non so se lui ti contatterà o decide di dire alle sedie di rimandarlo indietro, oppure di riconsegnato, ora sì che te lo riconsegno, capito? Ora sì te lo riconsegno. Quindi, secondo me ti conviene, se si assasse domani, passare alle sedie e chiedere se c'è il pacco, se c'è il pacco ritiratelo già, perché è un buon microfono, io ce l'ho, questo è il 908, poi ho anche il 508, ma il 508 in FM è una bomba, invece il 908, questo con l'equalizzatore, funziona molto bene, ritiratelo già, va, c'è l'SDA e ritiratelo. E ok, domani mattina vediamo da fare, cosa ti volevo dire, no, questo già va bene, siccome lo voglio lasciare anche perché c'ho quello di 144 da fare, no, ma lo stavo, diciamo, stasera a cracco, lo metto questa parte modulando lì, io ho provato a accenderlo con un antennino, però non sentivo niente, ma se era quella da fare quello, lo faccio smettere voi quello. Volevo anche esatto. Io stasera stavo trasmettendo un VHF, ero in Buenu, ero a 140. 5 c'era un altro, c'è la verità, è entrato Paolino, se te lo ricordi, ricco Paolino di Argento, c'era Vittorio, c'era Gianfranco, ce n'era di gente, ero, sono stato un'oretta buona lì, poi mi sono spostato in 10 metri, poi sono andato in 40 e poi sono tornato qua. E ho fatto le prove anche con Sandro Cona di Bialghero, perché dice che lui non sentiva Sassari in VHF, allora gli ho dato la frequenza, ho chiamato io, ma mi sentiva, quindi sicuramente non so che frequenza eri tu. No, anche se lo vuoi stavo cercando, ma tu te ne sei andato quando se lo chiamati, non gli ho sentito, va bene, ho provato un'altra da dentro casa, hai capito, e niente, se non c'è, tu l'ho conosciuto e all'epoca, poi quando era ancora al CP, sono molto in gamba, ecco, se lo persona, diciamo che ho fatto una buona conoscenza. Quella Lopanini, adesso vedo domani mattina, tu mi stai garantendo che ho un buon microfono? Sì Gianni, te l'ho fatto anche sentire, vai tranquillo, io non mi sbaglio. Ti ho detto qualità prezzo, il microfono della Donis, funzionano molto molto bene. Questo è perché tu non hai spazio, perché è un po' grande, c'è l'equalizzatore, lo strumento, c'è tutti un sacco di roba. È più grande dell'MC85, è molto più grande. Guarda, c'era anche Carlo, non so se l'hai visto, non so se l'hai visto quello che c'è Carlo CH23, che uguale a questo, vanno molto bene, lo stai sentendo. Questo tra l'altro è abbinato allo Yaesu, io sto andando adesso con lo Yaesu col 757, ma vabbè, lascia perdere, tutti i lavori sono stati fatti alla radio, però il microfono spinge molto bene. La stessa casa, questo microfono è costruito dalla Donis, come gli alimentatori della Nissei sono costruiti dalla Daiwa, la stessa cosa, infatti sono precisi, identici alla Donis, non cambia niente, però costano quasi 100 euro in meno, scusa quel volume lui era aggiunto, quel volume, perché nel piano non credo che sia quel volume, era aggiunto lui. C'è un volume come una manopola, si posso dire, del baracchino, di accendere e spegnere. Io non l'ho visto però nel piano quel volume. Un volume? Ma in quale? Nel 508 o nel 908? Nel 508. Di manopolone. Ah, è la Donis però nel 508. Sì, il 508 c'ha il potenziometro sopra, no? Per il minimo e massimo della amplificazione, mentre l'Oxel ce l'ha, quest'Oxel ce l'ha sotto, capito? Quella vettina che c'è, tipo l'SM20, non serve a niente quella fare lì. Io ho visto sopra che aveva un volume tipo quello che abbiamo nel volume dell'erario, hai capito? Ce l'aveva sulla destra, confermi? Sì, la Donis ce l'ha così sopra, come quello del Turner, diciamo, è un potenziometro di apertura e di chiusura del livello microfonico, mentre questo della Oxen ce l'ha sotto, non come tu hai fatto, hai visto che sotto l'SM20 c'ha un per aumentare e diminuire, no? Che si fa col cacciavitino, un trimerino, la stessa cosa c'ha questo qua, mentre quello della Donis invece c'ha il potenziometro. Io ho capito già, infatti c'aveva il potenziometro sopra sulla letra, quindi non c'avrà il trimmer sotto, confermi? Esatto, però in più questo della Donis, quello là c'è un potenziometro che non serve a niente, è bruttissimo. Questo in più però c'ha il CAL, tutto in automatico, il CAL, il VFO, la memoria e l'RF, che tu controlli direttamente tutto dal microfono. poi c'è il down up, la luce di cortesia che ti indica quando il microfono sta andando in trasmissione, e l'accensione, il power. Quindi quando tu non usi il microfono, spegni il power, la batteria rimane sempre staccata, non è mai attiva, a differenza della Donis. Guarda che è un buon microfono. Venerdì, oggi è, sì, e io la grande, venerdì considera sabato e domenica e lunedì è festa, vai tranquillo perché è ancora lì, vai tranquillo, è ancora lì. Dimmi, posso già come attivo in perché forse ho letto questa roba, io lo so, l'avrei avuta, sarebbe anche guastata, perché non so tutto questo. Però neanche io mi sono mai permesso a saltarmi l'idea che mi volevo regalare il transverse all'epoca di andare in 45 metri, perché è una roba che non è legale, no, assolutamente. Qui è l'unica cosa che sto facendo, che sto usando un'apparecchiatura che non entra nell'omologazione, però in 27, capito, qua però ce l'ho un apparato omologato, ce l'ho, se voglio, capito, a tutti gli effetti. Questo è giusto con l'imperfazione, ma è però uno a permettersi di andare a parlare in, in una frequenza che non è, che non si appartiene uno, è capito, una roba che non mi va bene, e sono fatto così. No, bisogna stare attenti, no, non devo far scherzare, ognuno il suo, io no, non sono mai andato a rompere scatto a nessuno, io ho possibilità di andare dove mi pare, mi piace, ma faccio sempre le cose che bisogna fare. Anche stasera Sandro mi ha chiesto appunto di fare una prova, te lo parlando mi fai sconfinare, se siamo nei limiti ben vengano le prove, però se io devo sconfinare, andare a farmi sentire in altre frequenze, no, non rischio la licenza per fare delle prove, capito? Quindi va bene così, io ho anche baracchini, quindi no, non mi frega niente, no, non devo dare spiegazioni a nessuno, e nessuno deve dare a me soprattutto, quindi ognuno deve fare quello che vuole, o già. Chiaramente ognuno si assume poi le proprie responsabilità, perché giustamente ti devi assumere le tue responsabilità, se sconfini, se fai, se trasmetti fuori banda eccetera, sono cavoli tuoi, a me lo sono le frega. Con la famiglia devo stare, e niente, però mi piace, ho detto, se non c'hanno grande di età, però entrano in radio lo stesso, quindi, e anche quella sassa, non è che ce n'è, quello che è entrato l'altro giorno, Giovanni, che abita qua vicino a me, quello che vediamo attorno, lo stesso, è grande di età, più, credo più di 70 anni, è amico di Roberto Quadrato anche, quello di Mattore, però anche il baracchino, se sente qualcuno entra anche qua, io gli ho detto che ero sul 10, è entrato l'altro giorno a fare una prova, è stato una decina di minuti con noi, non c'è problema, e la gente già c'è, già c'è. Un po' di pazienza ancora pian pianino, poi vedrai che già si popola, però ma sto in questo canale la gente sta entrando, poi negli altri canali non lo so. Ma io ho parlato con tutti che ha secondato di educazione, io parlavo con il 21, con quel che era il 21, ci abbiamo dato, però quello che nessuno cosa aspettare io, perché uno c'è una cosa con l'altro, io non ci sono io fino a quello stesso piede, ma uno perché mi piace parlare, e forse si stavo riferendo a Franco, che era di Amatore, io sono volato anche io, però l'unica cosa è che mi dispiace che i miei figli non hanno questa passione della radio, quello me ne dispiace molto, e mi sono detto poi che fine fanno, ho detto formatevi a qualcuno come nella parabola dei talenti, da quello che ha avuto la moneta che non l'ha sfruttata, diciamo mandare avanti la moneta, quello che ne aveva tante, con il prodotto che fare alle radio, la gente che ha veramente, veramente passione, e cosa ti volevo dire, come si chiama come tempo, perché non modula più ancora, Papa Mike, te lo ricordi? Sì, me lo ricordo, ma vagamente, sì, Bracco, sto vicino a Giovanni, è un animatore. Sì, me lo ricordo, ma vagamente, non mi ricordo a che zona modulava. Oh. bisogno di direttive tipo Ultra Bean, tipo Mollacker, tipo cosa ti posso dire, grandi direttive insomma, abbastanza costose, ma per grosse attività che sono in pochi, qua a Sassari, capito? Sono molto pochi che hanno quelle direttive lì. Il resto stiamo andando tutti con le verticali a 5 bande, le filari, qualche direttiva piccolina, ma siamo tutti così, dai. Adesso pensando vano nella memoria, avevamo fatto nel 1900, non voglio sbagliare, Clyde, o nel 73 o nel 74, una grande filata Ossi con tutti come premio una coppa, aveva partecipato la coppa, l'aveva vinta Carlos Quimeros, poi c'era Vera Treggio, Vespe, tutti storia alla verde che ancora non era per gli amatori, e poi mi sono ricordato di un altro, ti ricordi la Andrea Doria? E certo mi ricordo sì. No, noi avevamo fatto la caccia al tesoro allora. La caccia al tesoro. E l'avevamo fatta a casa di lavorare Vincenzo del Fino Bianco. C'ero io, Banca Leone, Corsa Romero, Toccai, Rimula Rossa, il grande Romano Porto Torrese, che mi faceva ridere, mi faceva troppo ridere Rimula. Chi c'era? Io non mi ricordo adesso. No, Fortunato Alfetta e tutti quelli di Porto Torcio avevano fatto la caccia al tesoro, però erano coinvolte un sacco di paesini, Ossi, Tissi, Sassari, c'era Sorso, Senoli e poi siamo usciti a consegnare tutti i primi fino a mattina, Baldori alla grande e altri tempi, Gianni, altri tempi. Oggi quando io sento parlare di questa gente che c'è 3 anni in radio, 4 anni, 5 anni, 6 anni, 7 anni, 10 anni, sembra che sappiano tutto loro e che si vogliono mangiare il mondo, non sanno manco cosa vuol dire veramente fare il radio. Diciamo l'importanza anche di questa cosa. Io stavo ascoltando sia ieri sera che stamattina lì, ero in 40 minuti e c'era, non so se hai sentito della gente che rompe le scatole anche lì. Sì. Sento un attimo da parte. Ma anche qua da poco fa che tentano di sovramodularti, ma non ho capito che arrivi più forte di quelli di Sassari, quindi non credo che abbiamo voglia di giocare. Da tutte le parti, Gianni, tutto il mondo è paese. Da tutte le parti c'è sempre gente che cerca di ostacolare, fare o per gelosia o perché sono nati per rompere le palle e quindi è così, capito? È così. No, io ho preso quando uno ha diversità di carattere o non ha dialogo con le persone, ho preso che si rimanga in disparte, che si faccia i suoi questi opere fatti suoi e non vada a rompere le palle a nessuno. Quando è così va bene così, ma quelli che poi si inseriscono nel contesto e entrano solo per fare casino, ma poco non mi va, insomma. Sì, perché una cosa, io l'ho detto sempre, perché anche l'anno scorso le succedevano le peghe, quando entravo sul 21 c'erano sempre questi che si ritrovavano la vicenda, e questo ovviamente era portante, questi andavano in giro di notte a cercare portatista, io però che siamo in una certa età, e io giro come portante, giro la manopola, lo spengono e non mi faccio. Sassari, il classico portantino, il rompimento di corse, c'era sempre sia a Sassari anche nei paesi limitrofi, capito, sempre qualche non c'era che ne trovava le cose, no? E ci saranno sempre quelli, ci sono sempre quelli. Tu sei convinto che non c'è gente che ascolta, le piace ascoltare perché il consiglio può essere interessante, può essere monotono, può essere farfallone, chiamalo come vuoi. Però sono giornate dove si parla di più del meno, di radio, si fanno prove, ci si scambia due idee, insomma. A qualcuno va bene, a qualcuno non le va bene, quindi ti mette la portante, ti disturba per farti capire chissà che cosa, è da ignoranti, capito? Il fatto poi di uscire, andare a cercare, quello è essere lascia aperto. Lascia aperto. Io quando vuoi dire qualcosa a qualcuno vado e la trovo da solo di persona, glielo dico e faccio. Non ho paura e non ho vergogna a dirlo. Se poi qualcuno si nasconde dietro il microfono, una cosa che non fa, capito? Poi ti ripeto, ognuno fa quello che le piace. Tu vedi bene quando io sono qua nel canale 10, sempre alla grande, non è mai successo niente, tutti a posto, tutti in ordine, anzi, cerchiamo di fare di meglio e di uscire meglio possibile. No, fa casino a destra, a sinistra, con chi c'è il microfono e a tutta birra lo vede di tutti. No, io parlo con tutti, se trovo che parlo c'è gente, introducatamente parlo, cioè per me, amo il prossimo, hai capito, però che nessuno mi perdi più, una volta mi sono molto allenato in certe cose che io capito, non ho tollerato più una persona, io non l'ho mai visto, sento che io alla qua bene, ma non lo vedo, oggi non conosco, non so come quando non durano le ragazze all'epoca, come trova una, magari partecipavo a un discorso, ma io mi sono permesso di avanzare. Entravano gli avvoltoni subito e capito si doveva interrompere queste o quella se scappava giusto perché c'è questa gente che prima di modulare o hanno comprato subito un come si chiama uno fuscolo, mi sembra che dici le prese, poi so che uno deve ascoltare in queste o poi però sempre si usa la massima educazione, come se è nata così la roba, se poi uno la vende e se la vuole trasformare, come è stata trasformata tante volte, e si sono anche afferrati una volta, ci sono capitato io perché eravamo andati a questo locale di la moglie di Filippani, perché lei e il marito aveva il baracchino, parlava la figlia, e lì là è successo che si mettevano le portanti da fondare a trovare e ha creato fino a come si chiama da lì poi sono partiti in macchina, sono trovati lì come si chiama, mi sono dovuto mettere capito a separare queste persone perché io trattavo bene con tutte e tre le parti, sono dovuto mettere a separare un giorno e sono altri due quando è che si è per cavoli poi. Quelle sono cose brutte quando uno pensa di essere in compagnia di persone a posto e poi sono le persone che vogliono zero, a fare eroi che provocano la gente per far sì che ne nasca la rissa. Non va bene, la radio non è fatta per questo, è fatta per scambiare le chiacchiere per le opinioni, ma soprattutto c'è libertà di parola, quindi uno può criticare, può fare, può dire, è sempre dialogo, poi trovi quella persona talmente prepotente, talmente sicura di sé che sbaglia sicuramente, e quindi da lì nascono poi i casini, ma va bene così. quindi come stiamo parlando noi tranquillamente, senza, con dialoghi abbastanza aperti e tranquilli per tutti, capito? Non tutta prosopopea di essere chissà cosa, a buono c'è nessuno, ho capito da sé, a buono c'è nessuno, non so se mi hai capito. Comunque, va bene, ok, quindi già tu domani mattina vai a ritirarti questo microfono, poi quando avremo modo di conoscerci veramente, visto che qualcuno ti ha detto noi ci conosciamo, a me non mi risulta, io ti conosco in radio e basta, hai fatto ridere l'altro giorno, che sia anche diretto, ma ti dirò appunto alcune cose che ti possono anche riguardare per il futuro. Avremo modo prima o poi, insomma, di conoscerci, non ci sono problemi. Mi fa piacere, così vedi le mie apparecchiature, mi piace vedere anche le tue, perché so che sia abbastanza, come si dice, abbastanza ordinato. Ciao, ma altre cose che non ho capito e non mi interessa neanche capire. ascolto, uno smattanato, una cosa che mi piace, e niente, se uno ne ha uno, se uno ne ha uno migliore, meglio, sono contento, non è che devo andare quello che la migliore, no, non è così, capito? È sempre esistita questa cosa. Già, io non sono mai stato geloso di nessuno, forse ti ripeto, ribadisco, perché non mi è mai mancato niente. Faccio radio dal 73 e ad oggi i miei risultati si vedono, li ho sempre fatti vedere a tutti. Ho cambiato un po' tattica, comunque, certo che a casa mia non entrerà mai più una persona di nessun genere, salvo quelli che conosco di vecchia data. Ma per il resto, ognuno a casa sua, amico con tutti, ma ognuno a casa sua. Se poi sono io che invito una persona è perché mi posso permettere di invitarla, perché la conosco tanti anni anche al di fuori della radio. Come Benito lo conosco, ci conosciamo una vita al di fuori anche dal baracchino. Con Luca lo stesso, conosco tutti i fratelli, tutta la famiglia, il baracchino si può dire che ho piazzato io. Perciò non, però altre persone già non voglio cadere più nel treno di nessuno, perché intanto amici veri e propri li conti sul palmo della mano, gli altri sono conoscenti che valgono zero, come ti giri ti pugnalano, e allora ognuno faccia quello che vuole, che desideri, a me non mi serve niente di radio, ne ho da regalare, come ho sempre fatto, a qualcuno non c'è problema e non mi manca niente, quindi posso essere tranquillo e sereno. E ciccia, va bene, niente, già mi sa, allora che chiediamo, sono le 11, anche se domani non si lavora, ma io voglio approfittare e andare a Poste, che devo pagarmi roba, ho un modulo che mi è arrivato di roba vecchia, è arrivato da Equitalia, e domani vado e me lo pago, tasse fisse. Quico! Ma noi stavamo chiudendo e tu sei entrato, ma hai riparito i cittadini. Sai, come era pizzicata? Una pizza ce l'ho da Magnatti. Oh, pizzicata al sonno. La pizzicata al sonno? In la Madonna, Gesù, mi sa che ti sei cliccato alle 5, alle 6, che ora è? E ti sei svegliato adesso. Guarda che c'è Capri 2. Cappa, cappa. Buonasera Capri 2. E io con lui ci siamo già sentiti poc'anzi. Vabbè. Allora, giusto, qui tempo in tempo mi sono sbagliato per salutare, perché anche domani è della Marco. Mannaggia, io lì. Oh, ciao Antonio, 4-5 volte stasera ho abbandonato la ruota e ho iniziato a venire qua gente, capito, volevo scendere e capito le presenziali, quindi con questa roba dell'Equitalia ogni tempo che non è arrivata la gente, gli arriva cosa di tasse, di come si chiama, ma come si chiama dopo 5 anni questa roba di reddito, come prescrizione, non è così grave. Io mi sono informato e mi hanno detto di no, quindi io non parlo perché non voglio aver rotto il riscatto. È una cosa del 98, fate il conto. Una cosa del 98, praticamente un modello 730 sbagliato di quando avevo ancora due mesi, mi erano rimasti, tra l'altro l'ingettivo, ma ce li avevano già altre persone perché ero già a lavoro, e la dichiarazione dei redditi sbagliata mi è arrivata questa multa, che forse mi è scappata di mano, sfuggita, così non lo so, trascurata, e mi è arrivata solo l'Equitalia, IRPEF, IRPEF, non so di quanto era allora, adesso mi costa la bolletta 570 euro. E quindi mi aggiungo, perciò andiamo a andare alle poste, vorrei più in banca e fare questo pagamento, poi vado alle poste, poi vado all'ufficio a portare i rapportini, anzi adesso li tolgo, rapportini che è fine mese, e poi insomma commissioni così, quindi mi voglio alzare presto perché poi voglio essere libero, sono costretto la mattina andando e tornando a destra e a sinistra, capito già. Infatti, ma quando stavo leggendo, prima di arrivare a Mercuritalia però ti mandano a te un primo avviso, non è così? Scusa, stavo prendendo i rapportini, se no mi dimentico. Sì, sicuramente sì. Infatti è una cosa che a me sicuramente mi è scappata, mi è sfuggita di... mi è sfuggita di mano, è una cosa che mi è sfuggita di mano, trascurata e siamo arrivati al dunque, vabbè, non è un problema comunque, si paga e basta, non c'è stare a dire molle e mollettine, lo paghiamo, e viva Gesù, e non ci pensiamo più. Ok, avanti, altro. Purtroppo succede a scappare qualcosa, vede, trofe. Mi ha vabbè, portate, io, come si dice, o si usi dire, meglio tardi che mai, cappa. Infatti no, qualche volta a me mi mandavano, come si chiama, però, diciamo, mandava già la, come si chiama, delle entrate, no? E quindi si stanava subito, no, perché come si chiama, si è scritto che tutte quante quelle cose della dichiarazione dopo, mi sembra, 4-5 anni sono nulle, grazie. Non so, già, io mi sono informato lì in ufficio da noi, che c'è un consulente legale, ha controllato tutto, ma ha detto, guarda, ti conviene pagare, per il fatto devi fare ricorso, devi... qui e là, trovo, me la paro, ho provato a farmi rateizzare due volte, ma hanno detto che non si può rateizzare perché non supera i 1000 euro. E se una moglie di rimarmi a ribagare i 520 euro, fanno ridere, cazzo, veramente, questo ufficio di entrate fa veramente ridere. A dove? Tu mi scusi se gliel'ho chiesto, non sa, io non arrivo nel loro, quindi mi posso permettere di buttare via 540 euro. Questo, se si può rateizzare due volte, rateizzate mai due volte, se no non supera i 1000 euro, quindi non possiamo rateizzare. Ma infatti, no, le stavo dicendo, vai, ammazzami. Sabicina è tra le scene. roba, cioè qui a volte che non arriva mai, se c'è qualche cosa al commercialista che ha fatto arrivare direttamente a mangiare, a volte che non c'è arrivata qualche cosa, qualche commercialista, e capito, arriva direttamente a me e ci sarebbe cosa, vero Claudio? Sì, perché è proprio la comunicazione arriva al commercialista e poi il commercialista te la comunica a te, è arrivato questo a pagare, capito? Non mi raccontano un po' tutti i rapportini. Quindi domani mattina mi consegno, se no i ragazzi mi fanno, mi mandano a me all'Equitalia dopo, a cacciare, che io sono consegnato i rapportini, il dirigente non controlla e non segna le ore, capito? Fate, lavori fatti, eseguiti, eccetera, eccetera. Avanti, Antu. Ehi, purtroppo così. Purtroppo così, è proprio vero, è passato un poveraccio, non era quello, ma è pagato buonanotte, è tutto il discorso. Lasciamo andare, ma ti vado a pagare, scusa. Io sai quante, aspetta, metto l'automatico, sai quante volte mi capita che mi chiamano gente, insomma, che mi conoscono, eccetera, sanno quello che faccio, eccetera, mi è arrivata la bolletta dell'acqua, così, troppo alta, sto mese c'ho assicurazione, c'ho spese, ma è possibile farla rateizzata, ok, dammi il numero d'utenza, quanto è l'importo, ma chi è tentato, ok, a te con me, io telefono, parlo con il mio responsabile, dico, è possibile fare, vabbè, mi porti la documentazione, gliela porto, la rateizzano. Se uno al momento di quella scadenza c'ha altre cose da pagare, assicurazione alla macchina, magari il condominio, una spesa in più, cazzo viene all'incontro, intanto sempre pagare bimbi, cosa c'entra perché non superi 1.000 euro non te la posso rateizzare, ma chi l'ha detto? Poi in azienda le rate minime che fanno è da 50 euro, le minime da 50 euro, quindi se ti arriva una moneta da 300-400 euro, te la rateizzi in 4-5 volte da 50 euro e va bene, non è che lo guardi da tutti, però io riesco a farle queste cose. Kappa, è vero. Ripeti Gianni, io ho 2 minutini dietro la cutia, capico? Facciamo un culo. culo per lavorare, per accumulare soldi, e poi ti arrivano queste ammazzate, alla fine ti si girano i pipilistri, capito? È come che Gianni, no? Esca a fare il suo servizio, tranquillo e sereno, tutto pulito, scolato, tutto ordinato, e fa un danno allucinante, insomma, le si girano le balle perché lui esce per andare a lavorare, non per fare danni al mezzo, così è già. Infatti, no, io grazie a Dio, in anni che ci sono non è capitato nulla là. E ti ricordo quella toccata che poi abbiamo messo a posto noi, che l'hanno fatta Platamona, il camion della birra, già ci ha pagato già, però non li hanno mai aiutato, e quindi è rimasto così, quello no, lì è l'altro impeccabile, non so, l'altro ce l'ho una vita, 55, non ce ne ha più nessun comune, e niente, non c'è neanche un graffio, ma gli ho fatto mamma con le macchine micra, però può capitare, guarda, una cosa in un minuto o in un secondo. Stai scherzando, chi va a cavallo è soggetto a cadere, dice quello, quindi non è che come si può sbagliare, ma non sbagliare, quindi quando uno sbaglia, perché no, se ha sbagliato chiede anche scusa, l'importante è sapere perché ha sbagliato e dove ha sbagliato, non è un problema quello, l'importante è capire sempre dove si fanno gli errori e perché si fanno in quel momento, ma purtroppo è umano sbagliare, è così, chi guida, chi fa, chi lavora, è soggetto sempre a problemi. Infatti non c'è gente che proprio se ne frega qua, che lui ci pensa, hai capito? E se tenda tutto in piano, come così bisogna fare molto con gli occhi aperti, molte volte c'è quello, ma io ce la precedere, e auto molti primi che ha, molte volte bisogna anche, mi ho visto di macchine scartate che con il cioccolato, ma io ci avevo la precedenza e quella è molte volte c'è quello che ti attraversa, hai capito che fuori di testa tu cosa fai, perché c'è la precedenza di quelli che lo lasci venire addosso, di questa gente ne conosco tanta che ragiona così. Perché ragionano così, che poi già si trovano bene, avanti a tu. Approccio, un approccio, vabbè, signora, approfitto, poi saluto che domani mi ha soppresso un'altra, ma che hai? Per fare un bel pavimentino domani, giusto per non perdere il vizio, KK, saluto a te, Gianni K2, e ci aggiorniamo tutto a domani, KK, riprendete, aspetto i vostri saluti. Ok, Anto, ciao. Grazie per essere entrato per la buonanotte e anche noi il passaggino e poi chiudiamo già alle 11:15. Domani io non lavoro, però ripeto c'è un sacco di cose da fare, scendo al portone, se portare il mezzo, tutta la documentazione mensile e fare altre commissioni. Ok, ciao, a domani, ci aggiorniamo domani. A presto, grazie di tutto Anto. Avanti Gianni. Ok, ciao Anto, allora, buonanotte, buon tutto per domani, buon trabacco e ci sentiamo domani sera, come al solito, sempre in questo canale che ormai si pensa, diciamo, non abitudine, non neanche il nostro, però è un punto di riferimento, un punto d'incontro, riprendi Claudio. Sì, ok, ben fatti. È un punto d'incontro un po' per tutti che vuole entrare, abbastanza trafficato stasera, visto c'era Alghero, c'era Portatore, Sassari, c'era l'altro amico di Osh e ce n'è di gente, sono abbastanza contento che la gente stia entrando, si faccia sentire, non è proprio vero che non c'è più nessuno. Non ci possiamo lamentare. Ok, dai. Gianni, due chiacchiere ce le abbiamo fatte. Ci abbiamo scambiato due idee, due cose. E niente. Io ti saluto, ti ringrazio come sempre della tua voglia di parlare, voglia di stare in compagnia, è piacevole. Ti auguro una buona notte, una buona giornata per domani, salutissimi al QRA Famiglia e ci sentiamo domani. Se ti va ci sentiamo domani Gianni, così mi dici se hai ritirato sto microfono, magari facciamo qualche prova. Un abbraccio e grazie del QSO, grazie della compagnia Gianni Capri 2. A te il microfono, ascolto il finale e poi chiudo. Ok, Claudio, ti ringrazio, saluti anche al QRA Familiare tuo e senz'altro domani sera glielo sai che se non ho altro da fare urgente sono qui alla radio. Per il momento buonanotte e buon tutto per domani, ti saluto anche io chiudo le trasmissioni per non ripetere. Ciao ciao a tutti. Ok Gianni, ti ha cambiato il tutto anche la parte del mio QRA e ci si aggiorna domani. Ciao, grazie della compagnia, domani, buonanotte. Ciao Claudio, buonanotte, ciao. Ciao Claudio, buonanotte di nuovo, anche Gianni, ciao ciao, alla prossima, ciao ciao ciao ciao ciao. Ciao Antonio. Ciao Antonio, mia mia, a domani. Ciao mia. Ciao mia. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao Luca, buonanotte. Buonanotte a tutti, alla prossima. Ciao ciao.